sono tre quarti d'ora che aspetto che l'ATAC mi degni di un suo mezzo di locomozione. Non è possibile. Mamma mia, non è proprio così. Chi è? Pronto? Oh. No, no. Ecco, bravo. No, no. Infatti. No, no. Ma... Pure. Vabbè. Sì. Vabbè. Sì. No. Insomma. Sì, va a posto. Ciao. Che palle.